una riedizione del fumetto Benefit che facemmo come supporto legale nel 2007, e lo facemmo appunto insieme a tutta una serie di autori, di fumettisti, grazie soprattutto all'idea di partenza e alla gran parte del lavoro che fu di Alessio Spataro. E per questo ventennale, mesi fa, abbiamo deciso di riuscire con una riedizione che prevedesse all'interno sia le tavole del fumetto vecchio, che si chiamava diversamente, si chiamava Genova versus G8, con una nuova copertina, ma soprattutto con tutta una serie di autori che già c'erano dallo scorso numero, autori e autrici invece nuovi che ci hanno regalato storie e tavole per quest'altro volume, per il ventennale. All'interno ovviamente non sarà, si chiama antologia perché non sarà soltanto non è soltanto un libro di fumetti, perché comunque all'interno ci sono diverse pagine scritte da noi. Fondamentalmente abbiamo messo all'interno, a parte un paio di spunti nostri del perché stiamo del nostro lavoro, abbiamo messo anche le sintesi dei tre processi principali, ossia il processo ai e alle manifestanti, Diaz, Bolzaneto. Abbiamo messo anche il processo alla rete del Sud Ribelle, che spesso e volentieri viene dimenticato, ma che fa parte dei maxi processi, dei filoni che si sono aperti dopo il G8 di Genova. Un'altra differenza che ho notato, diciamo, rispetto alla prima edizione, che questa volta il numero delle fumettiste donne è nettamente aumentato. No, più che aumentato ci sono, a differenza dell'altro numero. Guarda, la curiosità, se vogliamo proprio parlare di fumetti, visto che a me piacciono anche i fumetti, è particolare questo volume perché si vede l'enorme differenza, enorme, comunque anche la crescita di alcuni autori che c'erano appunto nel volume di 15 anni fa. Siamo contenti perché ci sono anche delle nuove autrici, tra l'altro anche abbastanza giovani, che ci hanno regalato delle loro storie. È un fumetto sicuramente più completo come antologia rispetto all'altro, però secondo me dimostra anche un quanto il fumetto italiano negli ultimi 15 anni ha fatto dei passi in avanti, anche semplicemente che nel panorama del fumetto italiano non ci siano soltanto autori, ma già da parecchio tempo, già da diversi anni, diverse autrici, giovanissime e non, si sono fatti il loro spazio e il loro nome. Ci sarà anche un tour di presentazione appunto di questa antologia. A che città toccherà? Ci sarà anche Bologna, se non sbaglio, giusto, venerdì? Sì, partiamo domani da Roma, poi faremo Bologna, sì, il 9 esattamente, al Bug 61, poi saremo al Conchetta sabato a Milano, saremo in Valle domenica 11, saremo a Napoli al Santa Fede Liberata il 13 e poi andremo direttamente il 20 a Genova. No, abbiamo nel mezzo anche Bergamo il 15, andremo a Monza il 25, sia col fumetto che il documentario, che l'altro progetto che abbiamo tirato fuori per il ventennale e che presenteremo in piazza a Genova il 20 luglio. Il fumetto invece il 21 luglio, chiaro.